la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, eccoci qua 16:37, primi in diretta da Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, ricorda l'indirizzo della versione di Oscar, @radio24.it, o anche se volete segnalare proposte o ospiti per i conti della belva, che c'è ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12, naturalmente mandate le vostre proposte a conti della belva, @radio24.it. La trasmissione di oggi è un prosieguo per finire il ragionamento che abbiamo cominciato ieri, perché il tempo non è bastato e perché i problemi poi restano. Ieri parlavamo appunto cosa fare, cosa non fare, cosa imparare, e perché lo Stato non impara ogni autunno quando arrivano vicende come quelle del 9 di, e 10 di ottobre scorso a Genova, poi ancora in Liguria in questi giorni, Chiavari parlavamo ieri, in Piemonte, nell'Alessandrino, Omegna e così via. E stavamo facendo questi ragionamenti su Genova in particolare, la Liguria in particolare, con un ospite che è ancora con noi oggi, il professor Enrico Musso. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a voi. Allora, la parte che non abbiamo toccato ieri, abbiamo un pochino parlato del passato a Genova, cioè che cosa poteva fare il comune, e ce ne ha parlato sul piano della protezione civile, se fosse fondato o meno il ragionamento di burlando la regione quanto ai fondi. Allora, io oggi però volevo affrontare un'altra questione di fondo, che ieri abbiamo solo scalfito, cioè in realtà, quella cosa imparare, che cosa cambiare rispetto agli addensamenti umani in queste aree. Uso una provocazione per farle la domanda. La provocazione la trago da un articolo che oggi ha scritto un genovese, Andrea Marcenaro, sul Foglio, un quotidiano del Foglio.it, e dal titolo si capisce già dove va a parare Andrea Marcenaro. Il titolo che vi leggo, cari ascoltatori, è questo: la volete la verità su Genova? Le alluvioni sono figlie della lotta all'abusivismo, della lotta all'abusivismo, non dell'abusivismo o dell'eccesso di costruzioni. Qual è la tesi di questo articolo che tento di sintetizzare? La tesi dell'articolo di Andrea Marcenaro è questa: che in realtà prima del 1953 l'unica vera alluvione distruttiva testimoniata nella storia di Genova era avvenuta addirittura nel 589 d.C. Nel 589, dopodiché le vere alluvioni, scrive Marcenaro, partono dal 1970, perché prima si ricorda solo verso 1200 un ingrossamento del torrente Fereggiano che aveva, a dire la verità, scrive lui, aveva rotto un ponte, lo chiamarono ponte rotto, la cosa finì lì. Invece è dagli anni 70 che avviene il disastro. E perché? Qual è la sintesi del pensiero di Andrea Marcenaro? Perché dal 1959 arriva il primo piano regolatore, e con l'idea della pianificazione urbana, eccetera, eccetera, eccetera, e la verità, scrive lui, la sua verità di Andrea Marcenaro, è che la lotta democratica all'anarchia edilizia e all'abuso popolare, in nome della lotta all'abusivismo, degli speculatori, eccetera, eccetera, ha prodotto tutte le precondizioni per le quali poi, quando ci sono i fenomeni in via di accentuazione in questi anni, come diceva ieri il professor Musso, meteorologici, ecco che poi ci scappano i morti. È una tesi, ovviamente, tutta sul filo del paradosso, ma siccome il professor Musso insegna economia pubblica con particolare attenzione, oltre ai trasporti pubblici, anche appunto alle questioni urbanistiche, io gli chiedo che cosa dobbiamo imparare rispetto alla pianificazione di spazi urbani laddove ci sono problemi di questo tipo a Genova, ma potremmo dire Sarno 1998, Soverato 2000, 2009 Messina, cioè laddove si è costruito e cementificato in un modo per il quale poi le correnti a forte concentrazione di precipitazione esondano, bucano e travolgono. Che cosa bisogna fare? Bisogna immaginare di spostare la presenza abitativa e delle attività commerciali e così via? Oppure che cosa? Ma è un argomento complesso. Io credo che il tema della pianificazione intesa come strumento che, combattendo l'abusivismo, garantisce certi risultati di sicurezza che invece non ci sono affatto garantiti, che invece non ci sono stati, viaggia più sul cercare di capire quando la pianificazione è stata sbagliata, nel senso che ad esempio nei rivi, nei torrenti genovesi spesso sono state fatte delle opere di di cementificazione per irreggimentare il corso di questi fiumiciattoli, che però una volta ogni 2-3 anni si ingrossano pericolosamente, e tutta la cementificazione circostante fa sì che fa correre più velocemente il flusso dell'acqua fino alla inevitabile tombinatura che troviamo nella zona, diciamo, urbanizzata e fortemente antropizzata, da dove poi il torrente esonda. Poi ci sono stati anche dei casi clamorosi, al limite dell'aneddoto ma veramente eclatante, di abusivismo pubblico, diciamo. Tutti ricordano che nel 2011, cioè appena 3 anni fa, in occasione della precedente grande alluvione genovese, l'esondazione del torrente Fereggiano, e venne fuori che nel letto del torrente Fereggiano c'era un capannone dove c'era un signore che svolgeva le sue attività artigianali, e per questo capannone pagava regolarmente un canone d'affitto, e sapete a chi lo pagava? Al Comune di Genova, che ne era il proprietario. Allora è ovvio che da un lato ci sono le buone intenzioni. Il capannone era del Comune, non dell'artigiano. Il capannone era del Comune, percepiva regolarmente un affitto, quindi è una roba surreale, perché da un lato lo stesso Comune, che certamente animato dalle migliori intenzioni, pianifica l'inverosimile con comunque un aggravio di costi, di tempi, di complicazioni che tutti noi conosciamo quando abbiamo a che fare con la burocrazia pubblica, in particolare nel campo edilizio, e poi dall'altro si ritrovano questi paradossi incredibili, oppure sempre riferiti alle alluvioni del 2010 e del 2011 nel ponente genovese e in Genova tutta, quel famoso palazzo che adesso finalmente è stato demolito, che era costruito esattamente al di sopra, esattamente sopra uno dei torrenti che esondò, nel famoso palazzo di Via Giotto, che adesso finalmente sono riusciti a buttare giù. Allora, è chiaro che c'è una cementificazione che è stata fatta prevalentemente nel Novecento e che ha combinato un po' di disastri. In questo magari non sono tanto d'accordo che è la lotta all'abusivismo che ha creato questi problemi, ma certamente una pianificazione sbagliata che non ha tenuto conto dei rischi con i quali invece dobbiamo convivere, dobbiamo sapere che ci sono. Io abito in una zona alluvionata, quest'anno ho avuto 1,70 m d'acqua nell'atrio di casa, ho dovuto tornare col canotto, diciamo. 3 anni fa 1,50 m d'acqua nell'atrio di casa, alcuni anni prima ho perduto un'automobile, adesso non mi succede più perché quando piove vado a parcheggiare su un cocuzzolo per mettere la macchina al sicuro. Cioè, dobbiamo essere consapevoli che questi rischi esistono per chi abita in grosso modo un quarto del territorio genovese, che peraltro molti di questi rischi sono anche assicurabili, quindi possiamo anche ragionare sul pregresso, sul costruito, pensando anche di quantomeno limitare i danni economici di questa vicenda, e anche avere sapere quali sono le cautele che anche personalmente dobbiamo avere rispetto ai rischi che purtroppo le persone corrono, tant'è che ci sono spesso anche delle vittime, insomma. Allora, io le faccio degli esempi in tutta Italia. Quando nel 2000 avvenne la tragedia sulla Fiumara Beltrame a Soverato in Calabria, un camping portato via, non doveva essere lì quel camping, comunque 14 villeggianti, dopo anni, cioè dopo circa 10 anni, la Regione Calabria fissò 185 cantieri necessari per in tutta la regione per evitare vittime in caso di frane, e 220 milioni c'erano i soldi, dopo 4 anni ne sono partiti purtroppo 6 cantieri su 185, i soldi ci sono, ripeto, il caso della Calabria è chiarissimo da questo punto di vista. 1998, Sarno, colata di fango, 159 morti, incredibile a dirsi. Allora, qui a distanza di anni le opere previste dopo quella immane strage, cioè la messa in sicurezza di canali e vasche, sono state fatte a valle, a monte non è stato fatto nulla. Allora, la domanda che le faccio è, nella sua esperienza, se il caso di Genova è eclatante, però poi ci sono questi casi in tutta Italia, che cos'è che manca perché, pur in presenza di fondi, poi gli interventi preventivati vengano fatti o non vengono fatti, come dicono i numeri fino a questo momento, secondo lei? Come dicevamo anche ieri, il tema delle risorse è in gran parte un falso problema. Ci sono due ordini di di motivazioni, una più di breve periodo, più tecnica se vogliamo, e cioè che spesso i soldi ci sono, nel senso che sono disponibili, sono stati messi a disposizione, ma mancano i progetti, oppure i progetti ci sono e non partono perché la procedura per renderli cantierabili e per poter finalmente avviare i lavori è lunghissima, dura anni, richiede l'interlocuzione con un numero imprecisato di soggetti pubblici ed è anche ricorribile da un numero imprecisato di soggetti privati che poi spesso ricorrono avviando anche delle procedure amministrative eccetera. Quindi questo è un ordine di fattori e dicevamo ieri talvolta i soldi ci sono e i lavori non partono lo stesso, e il caso della Liguria tra l'altro in quest'ultima vicenda riguarda anche questa fattispecie, perché per quanto riguarda in particolare i lavori della copertura del torrente Bisagno in modo da allargarla e quindi aumentare la portata della parte coperta potevano cominciare già un bel po' di tempo fa, anche a valle di un ricorso del TAR che ebbe una durata abbastanza limitata, ma così non fu e quindi abbiamo perso del tempo prezioso. Poi c'è un ragionamento, secondo me, quando diciamo i soldi non ci sono o diciamo che il problema sono le risorse, che è anche un pochino più di lungo periodo, se vuole un pochino più macroeconomico, ma è tendente a dire, attenzione, che è un problema di priorità, non di soldi che in assoluto non ci sono. Ricordava lei prima che la prima grande alluvione dell'era moderna è del 1970 a Genova. Allora, dal 70 al 2014 sono passati 44 anni e mi sono divertito a calcolare che la macchina del comune di Genova, con tutto quello che produce, più o meno utile, alcune cose indispensabili, altre forse un po' meno, eccetera, ma è costata grosso modo una quarantina di miliardi di euro. Ecco. No, dico, il budget del comune di Genova moltiplicato per 44 vale questa roba qui. E qui stiamo parlando di decine o in alcuni casi di centinaia di milioni rispetto a 40. Ecco, questa cifra secondo me ha un impatto tale che è in grado di far riflettere chi è a casa quando si dice non ci sono le risorse. 60 secondi adesso di strada e poi torniamo con Enrico Musso, le vostre telefonate. La versione di Oscar. Eccoci qua, no, voglio rispondere subito, stiamo parlando di alluvioni, cosa fare, eccetera, eccetera. No, il professor Musso non ha detto, rispondo a un ascoltatore che dice, la soluzione non è spostare più in alto la macchina, dice che dopo averci rimesso innumerevoli volte, tinteggiare la casa, rimesso la macchina e così via, ha capito che siccome ricapita, quando piove, parcheggia la macchina più su, non è una soluzione, è una cautela personale, quindi caro ascoltatore, avete capito male, noi ci poniamo il problema invece di che cosa imparare, per cosa fare per evitarlo questo nel futuro. Tra l'altro, solidarietà ai cittadini di Genova, perché stamattina è venuta una retata, arresti di dirigenti alla municipalizzata rossa della raccolta rifiuti, perché adulteravano le gare e orientavano gli acquisti all'AMIU di Genova in cambio di escort. Naturalmente io sono un garantista, però ci sono già in agenzia, ohimè, le trascrizioni delle telefonate in cui i dirigenti ringraziavano i signori imprenditori che per avere queste belle committenze pubbliche all'AMIU davano le escort, le donnine, siamo a questo, ma ecco le tangenti, le donne, ma questo secondo me dice molto dei problemi anche degli uomini, di taluni, senza generalizzare, però solidarietà ai cittadini di Genova per questo, perché nel frattempo le tariffe sono andate alle stelle e lì invece le escort, robe da matti. Sentiamo come la pensano un po' i nostri ascoltatori. Riccardo d'Alessandria, come la pensi? Buonasera, allora io ho una considerazione da fare che vale a livello generale. Allora, il problema è questo, i fiumi da sempre, quando scorrono, specialmente in occasione di piena, portano sabbia e ghiaia, il letto va abbassato in barba alle associazioni varie che dicono che non si tocca, perché il fiume va abbassato, se noi abbassiamo un fiume di 3 metri l'alveo, sono 3 metri di acqua in... Quindi lei dice vanno dragati? Vanno dragati. Ah, ho capito. Vanno dragati, poi guardi, io abito vicino... Lei lo sa che su questo c'è una pluralità di competenze tra i consorzi di bacino, i magistrati delle acque e così via, abbiamo inventato una pluralità di competenze che fa paura. Che sentire, allora, lo Scrigno, io abito a 7 km dallo Scrigno, per fortuna, ringraziando il cielo, non ho problemi, e questo è già tanto. Vuol dire, nello Scrivia, vicino a Tortona, dentro non c'è un fiume, c'è un bosco. Sì, allora, è chiaro, la manutenzione. No, è chiarissimo quello che ha detto. Sentiamo Gilberto da Roma. Gilberto, prego. Salve, sono... io volevo dire che secondo me diciamo la speculazione edilizia, quindi il fatto che diciamo, gli appartamenti, le costruzioni sì, hanno un valore legato appunto alla speculazione, ha creato questo tipo di abusivismi che poi sono come dire, avallati, legittimati dai condoni, e dopodiché... Quindi Gilberto, tu la pensi all'opposto di Marcenaro. Pensa che un altro ascoltatore, e invece Ugo, ci manda un messaggio che dice: quella di Marcenaro è sì una provocazione, però nella mia esperienza, dice Ugo, i danni veri in Italia fatti dagli accordi di programma di edificazione extra pianificazione, totalmente legale, sono, sia pure con la bollinatura ufficiale, altrettanto gravi dell'abusivismo, se non peggio. Che dice a proposito di questa osservazione di Ugo, il nostro Musso? Ma è abbastanza bizzarro vedere che i piani regolatori o urbanistici, o come li si voglia chiamare, tutta la varia pianificazione di bacino e quanto attiene alla sicurezza idrogeologica, sembrano una roba fatta apposta per essere derogata, cioè ci vogliono magari 10 anni per farli, e nel momento in cui c'è il bollo ufficiale, pronti via, e quel piano vale, dal giorno dopo si cominciano a proporre varianti per i motivi più svariati. Ora, siccome ultimamente i motivi diciamo degli enti pubblici e dei comuni in particolare sono spesso motivi di cassa, cioè bisogna fare i conti con una spesa corrente che non si riesce mai a comprimere, allora non di rado magari queste leggerezze di varianti che invece non dovrebbero essere concesse lo sono, nella logica di operazioni che anche dal punto di vista servono di a incassare, no, ohimè, auri sacra fame. Certo, 40 miliardi il costo del Comune di Genova in 40 anni fa pensare. Andrea dalla provincia di Parma, che pensa Andrea? Buonasera. Alcune considerazioni sempre su questo aspetto. Io ho notato negli ultimi anni, per esempio nel mio cortile di casa ho lasciato liberamente la ghiaia, sì, mentre invece tutti i miei vicini, la maggioranza, il 90%, hanno piastrellato i cortili o asfaltato, e quindi l'acqua non penetra più ma scorre e basta, se liberamente, quindi con molta più velocità. Sì, naturalmente finché si tratta di un cortile forse non è un problema. Tutte le piazze, ecco, le strade secondarie che ci sono nelle colline sono tutte asfaltate, la manutenzione dei fossi lungo le strade non si fa praticamente più, tutti i piccoli canali, io parlo di canali di 2 metri di diametro, sono stati tutti interrati, quando vengono praticamente come si dice ostruiti da qualcosa è quasi impossibile pulirli, e quindi questo crea dei tappi, no? E quindi penso che anche tutto questo aspetto crea poi queste situazioni qui un po'... Allora, a Carrara con ogni probabilità siamo in presenza di qualcos'altro, perché lì gli interventi sugli argini sono stati fatti, ma sono stati fatti con dei materiali diversi da quelli previsti dalla gara, quindi secondo me lì ci sarà un'indagine penale, vedremo, non voglio anticipare nulla, però i colleghi giornalisti che sono andati lì, hanno toccato con mano e hanno scritto i pezzi, raccontano un'altra realtà dei lavori pubblici italiani, quella non solo della mania di superfici per così dire non drenanti, ma anche di materiali usati diversi per risparmiare eccetera eccetera, rispetto, insomma, è la vecchia questione degli asfalti delle autostrade per intenderci. Massimo da Livorno, prego Massimo. Buonasera. Lei è il suo ospite. Sì. Ma io volevo chiedere semplicemente una cosa, da cittadino normale, si sente parlare sempre dei famosi tesoretti che i comuni e le regioni hanno. Il patto, quelli che sono virtuosi per il patto di stabilità non possono spendere. Ecco, bravissimo, esatto. Ma io dico una cosa, ma quando ci sono da fare questi interventi... Bisognerebbe sbloccarli, però facciamo una domanda al professor Musso, l'ultima. Ma Genova è in condizione di spendere di più? No, ha detto no, mi pare di capire prima che ci taglia, ma ha detto 56, mancano 2 secondi, a domani!